Capitolo 8. La Rocca degli Alberi. Montagnana, 1360-1405. Andrea era invecchiato adesso, come suo padre Luca prima di lui, quando gli raccontava le storie sulle mura, quella notte lontana sotto le stelle. Il tempo aveva fatto il suo lavoro silenzioso, come sempre, senza chiedere permesso a nessuno. Luca non c'era più. Se n'era andato in una mattina di primavera del 1348, quando la peste nera aveva attraversato il Montagnanese come una falce invisibile, mietendo senza distinzione tra poveri e ricchi, tra soldati e contadini, tra chi aveva combattuto per la libertà e chi aveva semplicemente vissuto. Se n'era andato tenendo in mano il piccolo scudo di ferro che era appartenuto a Milo e a Pietro prima di lui, con gli occhi rivolti verso la finestra da cui si vedeva un angolo di mura. Andrea aveva pianto una sola notte, poi si era alzato, aveva preso il piccolo scudo dalla mano di suo padre e aveva continuato. Era quello che si faceva a Montagnana, si continuava. Adesso era lui l'anziano che i giovani guardavano cercando risposte, lui il depositario della memoria, lui che conosceva ogni pietra delle mura e ogni storia di ogni torre, e adesso, nell'anno del Signore 1360, stava guardando qualcosa che nessuno della sua famiglia aveva ancora visto, la nascita di una rocca nuova. Francesco il Vecchio da Carrara aveva mandato a Montagnana il suo architetto migliore, Franceschino De Schici, con ordini precisi e risorse adeguate. La rocca doveva sorgere a occidente, esattamente dove Milo aveva detto tanti anni prima indicando la debolezza delle mura, quel tratto esposto alla pianura aperta che un esercito con macchine d'assedio avrebbe potuto sfruttare. Andrea aveva sorriso quando aveva saputo. Il bisnonno aveva visto giusto, come sempre. I lavori cominciarono nella primavera del 1360, con una frenesia organizzata che Andrea non aveva mai visto. Franceschino De Schici era un uomo piccolo e nervoso, sempre in movimento, con gli occhi che correvano veloci sui disegni e sulle pietre, con la stessa intensità. Parlava poco e costruiva molto, e quello che costruiva era di una precisione che faceva quasi paura. Andrea lo seguiva spesso nei sopralluoghi, portando la propria conoscenza delle mura come contributo silenzioso. «Qui», disse Franceschino un mattino, piantando un piolo nel terreno vicino alle mura. «La rocca sorge qui, tra questi due tratti, un androne di passaggio, un torrione orientale e il mastio. 8 piani il mastio, con garitta in cima». 8 piani», ripeté Andrea. «Chi controlla l'ottavo piano di quella torre?» disse Franceschino, senza alzare gli occhi dal disegno. «Vede fino all'Adige in una direzione e fino alle colline Euganee nell'altra. Nessun esercito può avvicinarsi senza essere visto con largo anticipo». Andrea pensò a Giacomo il Vecchio, alla rete di sentinelle nei campi e lungo le rive del fiume che lui aveva messo in piedi nel tempo di Milo. Pensò a quanto diverso sarebbe stato tutto quella notte del 1242, se ci fosse stata una torre capace di vedere così lontano. «Quante chiusure?» chiese. Franceschino alzò finalmente gli occhi con l'aria soddisfatta di chi ama le domande giuste. 10 chiusure mobili, 4 ponti levatoi, 4 portoni, 2 saracinesche. Ogni sezione della rocca può essere isolata dalle altre. Si può perdere l'androne e tenere il torrione. Si può perdere il torrione e tenere il mastio. Si può perdere tutto il resto e resistere ancora nel mastio per settimane, con i pozzi d'acqua, i magazzini di viveri, le stalle, i camini. «Una rocca dentro la rocca», disse Andrea sottovoce. «Esattamente», disse Franceschino con qualcosa che assomigliava a un sorriso. «Una rocca che non si arrende mai, del tutto. Sempre c'è un ultimo baluardo, sempre c'è qualcosa che tiene». I lavori durarono 2 anni. Andrea li seguì ogni giorno, diventando una presenza fissa tra gli operai e i capomastri, riconoscibile per il suo mantello scuro e il piccolo scudo di ferro appeso alla cintura. Gli operai lo chiamavano rispettosamente il vecchio delle mura, e lui accettava il titolo senza protestare, perché era semplicemente la verità. Vide crescere il mastio piano dopo piano, le mura spesse e solide che salivano verso il cielo con una lentezza ostinata. Vide installare i meccanismi dei ponti levatoi, i verricelli, le saracinesche. Vide scolpire sulle porte le lapidi araldiche. A sinistra il carro dei Carraresi, al centro l'elmo e lo scudo di Francesco il Vecchio, a destra la croce del comune di Padova. E quando nel 1362 la Rocca degli Alberi fu completata e si stagliò per la prima volta contro il cielo occidentale di Montagnana, con i suoi merli e le sue feritoie, Andrea salì fino all'ottavo piano del mastio e guardò il montagnanese dall'alto come non aveva mai guardato prima. A sud i campi di Casale di Scodosia si stendevano ordinati fino all'orizzonte. A ovest, Urbana e poi Merlara con i suoi due merli sullo stemma, la pianura si apriva vasta e silenziosa. A est, tra il verde scuro dei boschi, si intuivano i campanili di Saletto, Megliadino San Vitale e San Fidenzio, sentinelle di mattone contro il cielo. Verso il fiume, lungo il nastro lucente dell'Adige, le torri di Castelbaldo e Masi sorvegliavano la via del fiume come avevano sempre fatto. E intorno, le mura di Montagnana, le stesse che il bisnonno Milo aveva visto bruciare e rinascere, correvano complete e solide lungo tutto il perimetro, la città stretta nel loro abbraccio di pietra, come un bambino nel mantello della madre. Andrea rimase lassù a lungo, finché il sole non cominciò a scendere verso i colli lontani. Poi scese e tornò a casa. Gli anni che seguirono dimostrarono che Franceschino De Schici sapeva costruire. Nel 1405, quando le truppe veneziane si mossero verso Montagnana, la Rocca degli Alberi era ancora lì, solida e fredda, con i suoi ponti levatoi alzati e le sue feritoie presidiate. A difenderla c'era Tommaso da Mantova, podestà della città. Tommaso sapeva che Venezia avrebbe vinto. Lo sapeva come si sa che il fiume scorre verso il mare. Le truppe veneziane erano superiori in numero e in mezzi, e il leone di San Marco si stava posando su tutta la terraferma veneta, con una pazienza e una sistematicità che non lasciavano dubbi sull'esito finale. Ma Tommaso da Mantova tenne la rocca fino all'ultimo assalto. Non per inutile orgoglio, non per la gloria personale. Tenne perché era quello il suo compito, perché le mura che difendeva erano state costruite con il sudore e il sangue di generazioni, perché ogni ora di resistenza era un atto di rispetto verso chi aveva costruito quelle pietre e verso chi sarebbe venuto dopo. Quando alla fine cedette, lo fece con la testa alta e le condizioni di chi ha combattuto fino in fondo. Marco, figlio di Andrea, discendente di Milo, figlio del fabbro, era tra la gente che guardava entrare i soldati veneziani dalla porta occidentale, sotto il leone di San Marco che sostituiva i simboli dei Carraresi sulle lapidi araldiche. Era un ragazzo di 30 anni, con i capelli scuri e gli occhi chiari. Aveva in mano il piccolo scudo di ferro che era stato di Milo, poi di Pietro, poi di Luca, poi di Andrea, poi suo. Lo stringeva nel pugno come aveva sentito raccontare che faceva il trisavolo nei momenti difficili. «Terremo la testa alta!» chiese sottovoce la voce di sua cugina Elena accanto a lui. Marco guardò la Rocca degli Alberi, che si stagliava ancora integra contro il cielo, i merli silenziosi e dignitosi, nonostante tutto. «La terremo alta!» disse. «È quello che si fa qui. È quello che abbiamo sempre fatto». Il leone di San Marco sventolava adesso sulla torre più alta, ma le pietre erano le stesse, le mura erano le stesse. E sotto il leone, incise nella pietra, Le lapidi araldiche dei Carraresi resistevano, come resistono tutte le memorie vere, silenziose, testarde, impossibili da cancellare del tutto. Montagnana aveva cambiato padrone ancora una volta, ma Montagnana era ancora Montagnana.